Radio 24 presenta Destini incrociati. Destini incrociati. Un programma di Giacomo Zito e Simone Spoladori. Oggi Destini incrociati sbarca nel mare dei Caraibi. Nel centro del continente americano, tra incantevoli acque tropicali, contraddizioni insanabili e brandelli di storia che sanno di colonialismo e pirateria, si trovano isole meravigliose, diverse tra loro, con colori e sapori che difficilmente si riescono a dimenticare. C'è un'isola in particolare tra queste che ha una dimensione magica, un'atmosfera che sa di sigari e di caffè, di sogni e delusioni. Quest'isola è il centro della nostra storia di oggi. Si trova a pochi chilometri da Miami, ma è quanto di più lontano ci potrebbe essere dalla frenetica e mondana città della Florida. Stiamo naturalmente parlando di Cuba. Non esistono sulla Terra molti luoghi più affascinanti di La Habana. La capitale cubana oggi è una metropoli che arriva a quasi 3 milioni di abitanti e nella sua grandezza appare come un irresistibile calderone in cui è possibile trovare tutto e il contrario di tutto. Se passeggiamo per le strade di La Habana, possiamo incontrare automobili americane anni 50, macchine sovietiche, entrare in quartieri malfamati che rivelano improvvisamente seducenti strutture architettoniche barocche, o perderci in sinuose zone caratterizzate dalla sontuosa architettura coloniale spagnola. È bene ricordare anche che ci troviamo in uno degli ultimi paesi comunisti del mondo, paradossalmente posto a due passi dagli Stati Uniti, che il comunismo invece hanno tentato di debellarlo fino all'altro ieri. Anche il comunismo qui però ha un aspetto poliedrico e contraddittorio, del tutto originale. Da un lato ha qualcosa di eroico, dall'altro ha il volto spettrale della fame e della povertà, nella quale Cuba è lentamente sprofondata nei decenni, schiacciata anche dall'embargo americano. Di sicuro però quest'isola non ha l'aspetto tetro degli altri paesi comunisti ed ex comunisti del pianeta, con quel grigio sapore di omologazione. Qui lo spirito festaiolo non svanisce mai e la notte scintilla luminosa nel cuore dei Caraibi. L'incrocio di destini che vi raccontiamo oggi ha a che fare con la storia dell'isola cubana e proprio con la parabola del suo inossidabile sogno rivoluzionario, dal suo eroico concepimento fino all'odierna tragica disillusione. La nostra storia inizia il 25 novembre del 1956. Per la precisione, è la notte tra il 25 e il 26 novembre del 1956. Come potete sentire dai rumori di sottofondo, siamo su una barca, in mare aperto. Abbiamo infatti lasciato da qualche ora il porto messicano di Tuxpan, nello stato di Veracruz. L'imbarcazione che sta solcando il Golfo del Messico si chiama Grandma. È un'abbreviazione di Grandmother, che in inglese vuol dire nonna. È uno yacht di 18 metri, che potrebbe trasportare comodamente 12 persone. Stanotte e per le 5 notti successive a bordo ce ne sono 82 di persone, stipate, compresse, schiacciate. Le sorregge però la forza di un sogno chiamato rivoluzione. Sono gli esuli cubani che fanno rotta verso la loro isola natia con un unico obiettivo, liberarla dalla tirannia. Per Cuba è giunto il momento di svoltare verso la modernità. Con l'aiuto e il supporto dell'alleato statunitense, vi garantisco che la nostra isola cambierà in maniera radicale. In questo processo di cambiamento, nulla ci potrà fermare. Quella che avete appena sentito è la voce di Fulgencio Batista. Nel 1952 Batista ha preso il controllo dell'isola con un colpo di Stato. È un militare, Batista. Altre due volte ha guidato lo Stato caraibico, attuando una politica molto vicina a quella degli Stati Uniti. Il suo colpo di Stato avviene con il favore e il supporto dei servizi segreti americani e la nazione statunitense è la prima a riconoscere il suo governo. Va detto che Batista, con il supporto degli Stati Uniti, inizialmente fa anche cose positive per il suo paese, ma solo inizialmente. Investe nel turismo, portando il paese a un benessere mai conosciuto prima. Ma è pura esteriorità. Sotto la superficie c'è l'orrore della repressione, dura e cruda. C'è il soffocamento di ogni dissenso. Col tempo arrivano anche la corruzione, gli scandali, uno stile di governo sempre più personalistico. Le risorse dell'isola vengono svendute, proprietà terriere, miniere di nichel, zucchero, le ferrovie nazionali, tutto passa nelle mani di società americane. I'm so happy, I don't know just what to do. And now I'm on my way, feeling light and gay. A tisket, a tisket, I found my yellow biscuit. Tisket, tisket, tisket. Cuba nel pieno degli anni 50 sembra che gli Stati Uniti abbiano ricreato fuori tempo un surrogato dei Roaring Twenties. Sul ritmo del jazz che si mescola con i ritmi caraibici arriva la mafia americana che controlla locali, alberghi, prostituzione, casinò. L'Havana diventa l'ultima frontiera del turismo americano trasgressivo e senza freni. I cubani, quelli veri, sono gente orgogliosa e fiera. Davanti a uno spettacolo del genere, alla svendita della loro patria, non possono far altro che reagire e tentare di cambiare le cose. Per questo oggi sono su questa barca. Alla guida di questo manipolo di uomini pronti a tutto, c'è una figura carismatica. Un ragazzo colto e determinato che 50 anni dopo sarebbe diventato un controverso pezzo di storia vivente. Il suo nome è Fidel Castro. Io non sono andato al Moncada ad uccidere i soldati. Io ho attaccato il Moncada perché è la seconda fortezza militare della Repubblica e questa fortezza sostiene il regime. Noi rivoluzionari non lottiamo contro l'esercito, ma contro Batista, che sta discreditando terribilmente l'esercito. Batista danneggia tutti voi e voi dovete convincervi che Batista vi manda a combattere contro il popolo. Il nemico principale dell'esercito e dei soldati è Batista. È uno dei primi discorsi di Castro alle truppe rivoluzionarie che ha radunato verso la fine del 1955. Castro, a metà degli anni 50, è un brillante avvocato alle prime armi. Nel 52, però, assiste alla morte della democrazia nel suo paese, colpita da Fulgencio Batista, il quale cancella le elezioni dalla vita politica del paese. Fidel, da sempre convinto anti-imperialista, prima lo denuncia in tribunale e ne viene semplicemente deriso. E allora, con un manipolo di ribelli, attacca il Moncada, un edificio simbolo dell'Havana. È il 26 luglio del 1953. 80 ribelli vengono uccisi, Castro catturato e condannato a 15 anni di carcere. Batista decide di mostrare in televisione i cadaveri dei rivoltosi caduti. Si rivelerà una mossa sbagliata. Ombro con ombro. Questo è quello che succede a chi tenta di cambiare inopportunamente il corso della storia. Le immagini rimbalzano in tutta Cuba e cementano ancora di più il fronte dei ribelli. Quei terribili fotogrammi però volano anche al di fuori dei confini dell'isola cubana, in altri paesi del centro e del Sud America. Questo è quello che succede a chi tenta di cambiare inopportunamente il corso della storia. Stesso anno, 1953, stessi giorni, Guatemala. In un bar della capitale guatemalteca, un medico argentino che non ha ancora totalmente deciso cosa fare della sua vita assiste a quel terribile spettacolo di morte. Ha già deciso però che la sua esistenza sarà al servizio degli altri. In quel Sud America ferito dalla prepotenza coloniale e imperialista, sente fortissimo il richiamo della libertà e della giustizia. Nelle immagini che riempiono il video, in quell'orrenda strage esibita come un monito minaccioso ai futuri ribelli, quest'uomo trova le risposte alle sue domande. Quest'uomo, che si trova sulla barca al fianco di Fidel, diretto a Cuba nel novembre del 1956, è il nostro primo personaggio di oggi. Il suo nome è Ernesto Che Guevara. Ernesto Che Guevara. Ernesto Guevara, una delle più importanti, diffuse e significative icone giovanili dell'era moderna, nasce a Rosario, in Argentina, nella primavera del 1928. È il terzo di cinque figli di una famiglia borghese, agiata e benestante. Fin da piccolo sogna di fare il medico. Grazie alla sua determinazione, la laurea in medicina arriva nel 1953, a Buenos Aires. Prima però ci sono mille passioni e mille interessi che fanno di Ernesto un uomo colto, poliedrico e curioso. Si interessa di sport e in particolare di rugby. Diventa un campione regionale di scacchi. Si diletta di letteratura, di cinema, di arte e di poesia. Egli stesso si cimenta con la scrittura di alcune poesie. Prendi questa mano d'uomo che sembra di bambino, tra le tue levigate dal sapone giallo. Strofina i tuoi calli duri e le pure nocche contro la morbida vergogna delle mie mani di medico. Riposa in pace, vecchia Maria. Riposa in pace, vecchia combattente. I tuoi nipoti vivranno nell'aurora. Lo giuro. Questa formazione varia e intensa lo porta a sviluppare ulteriormente una sensibilità già straordinaria, insofferente ad ogni tipo di ingiustizia. Due anni prima della laurea, nel 1951, Ernesto, insieme ad Alberto, un compagno di corso, intraprende un lungo viaggio attraverso l'intero continente sudamericano, a cavallo di una motocicletta. Si tratta di una Norton a cilindrata 500 di proprietà di Alberto, che l'ha ribattezzata La Poderosa. È il famoso viaggio immortalato nel film I viaggi della motocicletta, quello che spinge Guevara a toccare con mano la povertà di massa del Sud America, a detestare le molte dittature più o meno mascherate che affliggevano il continente, a sviluppare l'idea di un Sud America unito e libero. È il viaggio, in poche parole, che lo spinge su quella barca verso Cuba. La prima esperienza di guerriglia di Che Guevara avviene proprio in Guatemala. Dopo la laurea, il Che, soprannome che gli deriva dal frequente intercalare tipicamente argentino Che, viaggia ancora a lungo per il Sud America e si ferma proprio a Città del Guatemala. Qui, nello stato centroamericano, presidente è Jacobo Arbenz Guzmán, un socialista illuminato che sta tentando di riformare il paese. Guevara si avvicina al governo di Arbenz, conosce diversi giovani socialisti e tra questi alcuni esuli cubani che erano stati allontanati dopo il fallito colpo di Stato con Castro. Nel 1954, però, la CIA, insieme a un gruppo di guerriglieri guatemaltechi appartenenti all'estrema destra, tenta di rovesciare il governo democraticamente eletto di Arbenz, reo di avere espropriato alcuni terreni dei grandi latifondisti. Questa prima esperienza di guerriglia dura poco. Il Che lascia il paese su invito del presidente e si reca in Messico. Il Guatemala cade nelle mani degli oppositori antidemocratici. Le convinzioni antiimperialiste e antiamericane di Guevara si rafforzano sempre di più. La bestialità dell'imperialismo è una bestialità che non conosce limiti, non conosce frontiere. La ferocia delle truppe di Hitler non è diversa da quella delle truppe americane, non è diversa da quella dei paramilitari belgi o da quella dei francesi in Algeria. La vera natura dell'imperialismo è quella di trasformare gli uomini in bestie assetate di sangue, disposte ad uccidere, assassinare, torturare. Il movimento del 26 luglio. È così che Fidel Castro chiama l'organizzazione che tenterà di riprendersi Cuba e di cacciare Fulgencio Batista. La data è quella dell'assalto fallito alla caserma Moncada. Fidel e il Che si conoscono a Città del Messico, presentati da Raúl Castro, che Guevara aveva conosciuto in Guatemala. Una discussione fiume che convince l'uno dell'importanza dell'altro. Guevara è anche diventato un ottimo soldato, nonostante una fastidiosa asma che lo affligge dalla nascita. Parteciperà direttamente all'assalto a Cuba. Siamo tornati sul Granma. Siamo tornati al 26 novembre del 1956. Guevara e Castro sono alla guida della nave che sta conducendo 82 uomini verso il loro destino. O vittoria o muerte, questo è il motto. Nella chiara, tesa ed emozionante notte caraibica, sul Granma non parla nessuno. Tutti cullano i propri sogni, le proprie speranze, le proprie paure. Il Che spera che Cuba possa essere la prima tappa verso la liberazione dell'intero continente sudamericano. Pensa che Castro possa esserne l'ispiratore, l'uomo decisivo. Quello che il Che però non può sapere è che l'uomo veramente decisivo per il suo destino è un altro. È sempre su quella barca, ma il comandante Guevara probabilmente in quel momento non ne ricorda nemmeno l'esistenza. È un uomo stipato fra gli 82 combattenti di quella barca, per certi versi il meno considerato. Il destino però ha scritto per lui una parte fondamentale, decisiva, per la nascita del mito Che Guevara. Il suo nome, la sua storia, fra poco. a destini incrociati. Una favola cubana che vorrei tu conoscessi almeno un po'. Destini incrociati. Oggi a Destini Incrociati ci siamo imbarcati sul Granma, la nave che alla fine del novembre 1956 conduce 82 esuli cubani guidati da Che Guevara e Fidel Castro verso l'isola di Cuba per cercare di liberarla dalla tirannia di Fulgencio Batista. Abbiamo raccontato la storia di Ernesto Che Guevara, il rivoluzionario gentile. Il 2 dicembre 1956, dopo 6 giorni di navigazione, arriva il giorno dello sbarco a Cuba. Il Che non sa ancora che il destino ha messo sul suo cammino un uomo che si rivelerà decisivo per la sua vita. I rivoluzionari sono sbarcati a Playa de las Coloradas, una zona paludosa e inospitale di Cuba. Hanno un giorno di ritardo rispetto al previsto e soprattutto non sono riusciti ad attraccare nel luogo stabilito per l'incontro con i dissidenti che si trovano già sull'isola. In altre parole, sono nel posto sbagliato al momento sbagliato. E l'accoglienza riservata loro dagli uomini di Batista non è proprio calorosa. Oltretutto, i rivoluzionari guidati da Castro sono in netta minoranza. Una volta sbarcati, non resta loro che disperdersi nella foresta per sfuggire al fuoco nemico, per poi ritrovarsi nel cuore della vegetazione. Attorno a Castro, nel pantano, quando il fuoco nemico sembra progressivamente svanire, c'è un manipolo di uomini. Castro si guarda intorno, punta poi gli occhi su uno dei suoi. «Manca Ernesto», dice. I muscoli del volto contratti per non tradire l'emozione che quell'assenza gli stava procurando. Fidel è il capo, deve trasmettere sicurezza, non ci si può fermare per nessuno. Ma per un amico come il Che, un tentativo va fatto. «Va a cercarlo, fai presto, non abbiamo tempo», dice Fidel. Lo dice guardando in faccia uno dei suoi uomini. Si tratta del tenente del terzo plotone, quello guidato da suo fratello Raul. Si tratta dell'unico europeo a bordo di quella barca. Si tratta di un italiano. Il nostro secondo personaggio di oggi. Il suo nome è Gino Donè. Gino Donè. Chi è Gino Donè? Beh, il nome probabilmente a molti di voi non dirà nulla. Gino, innanzitutto, è stato un partigiano. Lui, veneto di Treviso, classe 1924, professione carpentiere, ha combattuto contro i tedeschi e i repubblichini nelle sanguinose guerriglie della Laguna Veneta con la missione Nelson e con il comandante Guido. Una mattina mi sto svegliato. Oh, bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Una mattina mi sto svegliato e ho trovato l'invaso. Dopo il 25 aprile, Gino riceve un encomio dal generale Alexander. Poco dopo, però, al di là delle medaglie e dei riconoscimenti, Donè, che per l'Italia aveva dato l'anima e il corpo, insoddisfatto della piega politica che il paese sta prendendo, decide di andare all'estero. Lì, immagina, potrebbe trovare anche più facilmente lavoro. Emigra così a Cuba, passando dal Canada. Nel 1951 lavora a La Habana come carpentiere nella grande Plaza Civica, l'attuale Plaza della Rivoluzione. Nel 1952 Gino si fidanza con Olga Norma Turino Guerra, giovane rivoluzionaria cubana di ricca famiglia, abitante nella città coloniale di Trinidad, amica tra le altre cose di Aleida March di Santa Clara, futura seconda moglie di Ernesto Che Guevara. Grazie alla moglie Olga, Gino Donè entra in contatto con il gruppo castrista degli esuli rivoluzionari e sposa immediatamente la loro causa, sentendo in essa lo spirito della lotta partigiana che aveva combattuto qualche anno prima. Io ho partecipato al Granma perché io ero in Messico, io andavo e venivo da Cuba al Messico. Il Granma è venuto, è stato l'ultimo ricorso, l'ultimo che è rimasto al comandante Fidel. Dice, o Cuba o morte. Nel 1956, diventato tesoriere del gruppo rivoluzionario castrista 26 luglio di Santa Clara, viene incaricato da un dirigente, Faustino Perez, di portare dollari in Messico, dove lo attende Fidel. Sono i soldi che servono per l'acquisto del battello Granma. Gino diventa amico di Fidel e di Raul e, in quanto ex partigiano, collabora agli addestramenti militari. Ormai è chiaro che Fidel lo considera un uomo fidato e di importanza strategica. Lo inserisce così nel gruppo degli 82, pronto alla rivoluzione. Puntitos viviremos, puntitos moriremos, unidas las dos almas formando un solo ser. Ecco svelato il mistero dell'italiano sul Granma, anzi di El Italiano, come lo chiamano tutti i compagni di rivoluzione. Gino ricorda molto bene quel viaggio. Il viaggio non è stato un passeggio, no? È stato un martirio. Sì. Così siamo arrivati lì con, sì, con l'uniforme grigia, sì, però col culo sporco, sì. Se non c'hai né carta per lavarti il culo, sì, però, ascolta, però, che ci importava? No, non puzzavamo, no. È a lui, quindi, che Fidel chiede di cercare il compagno Ernesto quando il gruppo ne perde le tracce sulle spiagge cubane, appena sbarcati con il Granma sotto il fuoco nemico. Gino non esita un solo secondo. Non si chiede perché proprio a lui e parte alla ricerca del rivoluzionario argentino. Due o tre chilometri più in là, una figura nel fango. Eccolo, il Che. Testa bassa, colore cianotico, si trascina a stento. Ha avuto un attacco d'asma. Ne soffre fin da bambino, Guevara, e ora rischia di essere raggiunto dai nemici. La rivoluzione cubana potrebbe perdere uno dei suoi uomini di punta. Quando Gino Donè lo trova, però, il destino e la storia si fondono imprevedibilmente. La moglie del partigiano italiano, infatti, soffre anche lei d'asma e Gino sa esattamente cosa deve fare per scacciare la crisi. Non si perde d'animo e tenta di rimettere in sesto il Che. I due in realtà si erano già conosciuti, in Messico, giusto due parole. Guevara aveva confidato a Gino che se non avesse incontrato Fidel, sarebbe emigrato in Italia per specializzarsi in anti-asma all'Università di Bologna. Sentiva già l'Italia nel suo destino. Inginocchiati, lo prega ora Donè. Lo fa sottovoce perché non sembri un ordine improvvidamente impartito al carismatico comandante argentino. Gino ha imparato bene come attenuare l'attacco d'asma. Un massaggio alle spalle e al collo, dall'alto in basso, lentamente. Passa mezz'ora. Adesso andiamo. Gino Donè e Che Guevara si incamminano nei boschi della Sierra Maestra, ritrovando il resto del gruppo. Ritrovano Fidel e Raúl Castro. Missione compiuta. I superstiti festeggiano l'inizio della lunga guerra di liberazione di Cuba. Qualche giorno dopo, il 5 dicembre 1956, ai piedi della Sierra Maestra, in un posto chiamato Felicidad de Pio, Gino ed Ernesto, che sono ormai grandi amici, incrociano lo sguardo per l'ultima volta. Gino, appoggiato a un albero, parla con Jesus Montané, compagno della prima ora di Castro. Guevara fa il medico e sta curando i piedi martoriati di chi ha marciato per ore sulla pietraia. Gino gli sorride e si avvicina a Guevara. In quel momento Donè ha 32 anni, pettinato con la riga da una parte. Dice: «I miei uomini non riescono più a camminare, i chiodi degli scarponi graffiano i piedi, puoi fare qualcosa?» «Finisco e ti chiamo», risponde Guevara, fasce e alcol in mano. Donè non fa in tempo a tornare al posto di combattimento, all'ombra pallida della canna da zucchero, quando, come racconteranno dopo, arrivano centinaia di militari e un diluvio di pallottole. Cercano di nascondersi fra le canne, ma piccoli aerei volano basso guidando la caccia, mitragliano. In quel colloquio asettico ci sono le ultime parole tra Gino Donè ed Ernesto Che Guevara. Ferito al collo, il Che viene trascinato da un'altra parte. Non si vedranno mai più. No, non si aspettavano, non sapevano, almeno che pensavano che lì nella barchetta c'era 82 maledetti disposti a tutto. Sì. Quello che è venuto fuori. In quell'incontro casuale, per entrambi, la vita svolta in maniera determinante. Il Che si vede salvata la vita e porta avanti i suoi sogni rivoluzionari. Gino Donè, per quel gesto, diventa uno dei fedelissimi di Castro. Prenderanno strade diverse, ma il loro legame rimarrà fortissimo. Un popolo può liberare se stesso alle sue gabbie d'animali elettrodomestici, ma l'avanguardia d'America dobbiamo fare dei sacrifici verso il cammino lento della piena libertà. Destini incrociati. Dicembre 2006, Cuba. Si festeggia il 50° dello sbarco del Granma sull'isola caraibica. Il paese è lontano da quello che i rivoluzionari che avevano lottato contro Batista sognavano. Schiacciato tra l'embargo americano e la chiusura totale del regime castrista, il paese va sprofondando nella povertà. Ciò nonostante, in un clima reso ancora più particolare dalle misteriose condizioni di salute del leader Máximo, i festeggiamenti hanno inizio. Sul palco, insieme a Raúl Castro, ci sono gli eroi del Granma, i superstiti di quegli 82 uomini che guidarono la rivoluzione. Non sono molti, perché erano stati ridotti 50 anni prima dagli spietati soldati di Batista e col passare del tempo dalla vecchiaia. Il gruppo dei guerriglieri si è molto assottigliato e ora è costituito da un manipolo di uomini anziani dagli sguardi lucidi e carichi di emozione. Tra di loro c'è anche El Italiano, Gino Donè. Andar lì, e sono andato lì, sono ritornato da poco. Sì, sì, mi sono sentito 50 anni più giovane. Cuba è stato un esempio, di purezza, di dignità, di idealismi puri. Gino Donè era un perfetto sconosciuto. Poi ha salvato la vita a Che Guevara, che sarebbe diventato un mito per intere generazioni, un'icona di libertà e di ribellione per milioni di giovani. Il Che viene ricordato soprattutto in quell'immagine scattata da Peter Korda, esibita su milioni di magliette. Quella foto è anche il frutto dell'incrocio di destini fra quel coriaceo partigiano veneto e il leggendario medico argentino. L'aver salvato la vita di Che Guevara ha avuto anche un effetto determinante sulla vita di Gino Donè. E questo nonostante i due non si siano mai più rivisti dopo il 5 dicembre del 1956. Grazie a quel gesto, grazie all'ottimo comportamento tenuto in battaglia, Fidel affida al soldato Gino Donè incarichi importantissimi, come quello di addestrare l'esercito negli anni successivi all'impresa del Granma fino alla cacciata di Batista. Io ero duro, Per essere stato istruttore militare dei ribelli devi essere duro, non sorridevo tanto, no? Ero esigente. Non sapevano chi ero. Sì, però ero giù. E mi odiavano queste maledette. Sì, perché le ho fatte camminare pure nella merda, nel fango. Donè era rimasto a Cuba fino al 1958, al fianco dei Barbudos, i rivoluzionari, chiamati così perché non avendo a disposizione rasoi e lamette, portavano tutti una lunga barba. Gino vive le pagine più importanti della rivoluzione cubana. I rivoluzionari, le cui file si ingrossano sempre di più, riescono a ottenere importanti vittorie grazie a rapidissime ed efficaci incursioni, propiziate anche dall'addestramento di Gino Donè. Poi, nel 1958, Batista lancia l'ultima controffensiva, la più violenta. Si chiama Operazione Verano. Castro va da Donè. Tu sei straniero, gli dice, rischi di più, vai via dal paese. Gino obbedisce. Inizia una vita fatta di viaggi e di peregrinazioni, si dice, probabilmente non a torto, come agente di Castro all'estero. E fino al 2006, fino alla gloria sul palco del giubileo del Granma, non mette più piede nella sua Cuba. Chan chan le da wa pera. Il 22 marzo del 2008 Gino Donè è morto. Aveva 84 anni. A San Donà di Piave, dove si era trasferito per stare vicino alle sue nipoti, si celebrano i funerali. I media italiani gli avevano dato spazio dopo quell'apparizione ufficiale e solenne a Cuba 2 anni prima. Poi i riflettori si erano spenti. Al suo funerale pochi amici e le nipoti. San Donà è un piccolo paese, possiamo immaginare lo stupore quando i cittadini vedono arrivare 2 lussuose auto con i vetri oscurati e le targhe consolari cubane. Gli autisti parcheggiano, scendono 2 uomini elegantissimi, 2 diplomatici dello Stato caraibico con una bandiera. Fidel e Raúl non si sono dimenticati dell'uomo che aveva salvato il Che. La storia del Che, dopo la rivoluzione cubana, è ben nota. L'8 gennaio 1959 Guevara e Castro sono a La Habana, liberata da Batista e accolti da trionfatori. Per anni il Che è l'uomo di fiducia di Fidel, poi cambia qualcosa. Il progetto di Guevara è più ampio. Sarebbe meglio dire il sogno di Guevara: portare tutti gli stati del Sud America in una condizione di indipendenza. L'11 dicembre del 1964 il Che pronuncia un discorso indimenticabile all'Assemblea Generale dell'ONU. Questa America di colore, scura, taciturna, che canta in tutto il continente con la stessa tristezza e disinganno. Ora questa massa è quella che comincia ad entrare definitivamente nella sua storia. Comincia a scriverla col suo sangue, comincia a soffrirla e a morire. Perché ora per le campagne e per i monti d'America, per le balze delle sue terre, per i suoi piani e le sue foreste, fra la solitudine o il traffico delle città, lungo le coste dei grandi oceani e le rive dei fiumi, comincia a scuotersi questo mondo ricco di cuori ardenti, pieni di desiderio di morire per quello che è suo, di conquistare i suoi diritti irrisi per quasi 500 anni da questo o da quello. Ora sì, la storia dovrà prendere in considerazione i poveri d'America, gli sfruttati e i vilipesi, che hanno deciso di cominciare a scrivere essi stessi per sempre la propria storia. 3 mesi dopo, Guevara sparisce dalla vita pubblica di Cuba. Non comparirà più in pubblico. Nel 1965 andrà in Congo, alla guida di un esercito cubano in appoggio ai ribelli di Patrice Lumumba. Dopo il fallimento africano, nel 1967, sarà la volta della Bolivia. Avrebbe dovuto essere il primo stato sudamericano ad accogliere la lezione di Cuba. La CIA però interviene, manda aiuti e uomini per contrastare i rivoluzionari e trasforma il paese nella tomba di Guevara, che viene ucciso il 9 ottobre 1967. Il 6 marzo 1960 Alberto Korda scatta una foto al Che e la regala all'editore italiano Gian Giacomo Feltrinelli. Diventerà una delle immagini più famose del secolo. Gino Donè, o meglio Gino Donè Paro, perché alla sudamericana aveva aggiunto al suo nome anche il cognome da nubile della madre, nel suo piccolo ufficio a San Donà aveva un'enorme bandiera cubana con quella foto appesa dietro alle spalle. Quella foto aveva un sapore tutto particolare per lui, l'uomo che ha salvato la vita di Che Guevara. Fidel è stato. Lo è e sarà sempre il mio comandante. Per lui è sempre Fidelis. Questo è il motto dei Marini e questo è il motto mio. Sempre Fidelis. È però quello che è stato il mio compagno è stato Ernesto Guevara. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Destini incrociati. Destini incrociati. Adattamento radiofonico di Giorgio Bacco. Questi destini si incroceranno di nuovo questa sera alle 23, qui su Radio 24.